Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a dicembre del 1857. Partono gli scavi per il tunnel sotto il monte del Fréjus, si rinsalda l'asse Torino-Parigi. Nuova crisi finanziaria negli Stati Uniti, le banche di New York chiudono per un mese. Terremoto in Basilicata, migliaia di morti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura parliamo di un'importante infrastruttura che collegherà la Francia all'Italia. L'idea di realizzare un tunnel per la ferrovia sotto il Fréjus è addirittura del 1832. Quell'anno, infatti, un oscuro commissario di Dogana del Regno di Sardegna, Giuseppe Medai, il nativo di Bardonecchia, lanciò la proposta e nel 1840 presentò un memorandum in questo senso al re Carlo Alberto. Ora che i lavori sono partiti, inaugurati solennemente da Vittorio Emanuele e dal principe Napoleone, figlio dell'imperatore francese, il progetto, 13 anni dopo la morte di Medai, diventare realtà. I due reali hanno fatto saltare le prime mine per aprire la galleria che passerà sotto il passo del Fréjus, accorciando di molto le comunicazioni tra i due lati delle Alpi. Nel 1844 un primo studio preliminare era stato affidato al belga Henri Maus, ma il progetto finale si deve a Germain Meillet, Sebastiano Grandis e Severino Grattoni. Il collegamento, che è tutto in territorio del Regno di Sardegna, visto che unisce Piemonte e Savoia, è finanziato solo da Torino, 42 milioni di euro. L'opera è grandiosa e costerà grandi sacrifici, ma è un altro segno che i confini del piccolo stato sabaudo sono ormai troppo stretti per contenere le sue aspirazioni. Paolo Piacenza, Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È stata fondata a Torino la Società Nazionale Italiana. Si tratta di un'associazione che mira ad unire democratici e monarchici intorno ai Savoia per arrivare all'indipendenza della penisola. Tra i fondatori ci sono molti esuli, come Daniele Manin, che è però scomparso in settembre, La Farina e Giuseppe Garibaldi. Esplosa una durissima crisi finanziaria negli Stati Uniti, il calo della domanda dall'Europa per i beni provenienti dall'ovest del paese ha spinto al ribasso i prezzi dei terreni e si è innescata una spirale che ha portato ad una stretta del credito. A questo si è aggiunto il fallimento, a causa in realtà di malversazioni, della Ohio Life Insurance and Trust Company. È stato il panico. Le banche di New York hanno letteralmente chiuso i battenti e non hanno riaperto fino al 12 dicembre. Ora si guarda agli effetti sull'economia reale. Un terribile terremoto ha squassato il sud Italia, il sisma si è avvertito nitidamente anche nella provincia di Salerno e fino a Latina, ma l'epicentro è in Basilicata. A Montemurro, vicino a Potenza, non resta in piedi quasi nulla e le vittime sarebbero migliaia, 9.000 solo nel distretto di Potenza. In chiusura parliamo di sport, uno sport antico ma che sta prendendo particolarmente piede in Inghilterra, uno sport che gli inglesi chiamano football e che da noi si chiama calcio. Fatto sta che, iniziato nei college, ha da quest'anno il suo primo club regolarmente costituito, il che fa pensare ad una virata verso il professionismo. Si tratta, manco a dirlo, appunto, di una società inglese ed è lo Sheffield Football Club. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate a visitare il nostro blog, la nostra pagina Facebook, scriveteci là a gazzettino@radio24.it, scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.